Metti in blackout, raga. Sassari la mannaia record. Il vero suono della Grammy, quello che spacca. Già lo sai com'è che gira. Che cazzo vi credete, brutti stronzi? Questo è il suono della Grammy. Verità nuda e cruda. Questo è il vero suono. Siete dei coda vecchi. Questo è il vero suono. Morto che parla. G-Flora, Altra Cuba, Voodoo Clan. Fatemi vedere il trailer di Sassari l'angoscia. L'angoscia come in cella, chiuso tra quattro mura. E fa malessere senza avere la cura. E fanno un recital in carcere, nessuno vuol far giù. E fanno ascolti spam, e fanno spazzatura. Tu togli l'essere e salvi la figura. Io salvo dentro birra e tolgo la sicura. E ripetiamo dal Vangelo, secondo Giona. È scura cazzo, questa città è scura. Tramuta rabbia in furia, e la morte c'ha fretta. Vuole la tua fetta, Grammy flow la setta, è il tempo che li aspetta come una lumaca lenta sopra una lametta, piscia acido su una camionetta. Meno male che c'è il rap, se no la gente si ietta. La mia città da pere, l'angoscia te la inietta. Dove cazzo viviamo? Realtà nuda, cruda e schietta. Disturbi del sonno, l'ex sottane birretta. Fammi chiarire alcune cose, le mie giornate nebbiose le descrivo in prose. Il corpo qua e la mente altrove, l'avrei capito, mi fa schifo. Dove vivo mi fa schifo, quindi grido, raga, un urlo collettivo. Sassari boys, make noise contro di voi. Ne vuoi poi scommetterci che foto tutti i tuoi eroi? Assioma logico, si dico ancora vomito. A meno che non scappo dalla piazza tipo agorafobico. Non mi interessa un cazzo del tuo amico, le sue parole, tipiche stronzate da rincoglionito. Dite puttanate se parlate, bestemmiate, cazzo fate. Vi mando, siete voi che ve ne andate. Questo è duro, butta giù il vostro edificio. La mannaia sotto scala, a.k.a. cementificio. Naturale artificio. Perché proviene dal cervello, amico. E poi non lo controllo, è grigio questo cielo. Garangando. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. E dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Mi è strano in questa Sassari. Sassari a mal d'animi. Sassari l'angoscia. Sassari mi esamini. Mi se mi lasci Sassari, qui non respiro più. Dalla via, dallo zombie che me, ci sto cadendo giù. Meno male in crew, tecniche perfette a testa in su. Mastico chi mastica, me l'hai insegnato tu. Niente qua va bene, dentro me sento qualcuno urlare. Nonostante mi son fatto con l'asfalto e con la fame, la gloria non va più bene, mi siedo accanto alla city. Cos'è che ti fa male, dice, stare in questa city? Il mondo in sé fa schifo e certi episodi li ho visti. Strane situazioni, ma con espressioni troppo tristi. Grammy sound, Grammy flow, Six side in the town. La mia via, il mio dio, lo so io, il mio ground. Lo so anch'io, cosa fanno gli effetti dell'under. Sto nel mio, perché Sassari mia madre. La pioggia scroscia, la noia fa la sua mossa. La voglia ormai l'ho riposta, la voglia di una risposta. La faccia commossa, io c'ho una faccia tutt'ossa. E su sta traccia ti gonfio la faccia e non lo faccio apposta. Io dentro sono freddo, infatti ho sempre i brividi. Io sono perso dentro l'anima coi lividi. E ogni giorno è perso, e se sei colto e sveglio cogli al volo, che è molto meglio se non mi imiti. Hai storie simili, io seguo un filo logico. Non sei credibile, nemmeno se fai il filosofico. Io c'ho l'ansia ogni respiro, c'ho ansia coi capogiri. E non è con la mia ragazza, ma è con l'ansia che mi corico. Cambiano gli anni, il carattere e i legami. Chiariamo i drammi e gli scandali banali. Sai cosa penso? Cosa? Che il silenzio sta ai codardi come le chiacchiere agli infami. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. Un giorno mi alzo e la mia vita è fottuta come una casa. Se parli coi morti non chiudi la seduta. Tu hai paura di non trovare sbocchi né uscite. Io di morire domani in sei ore inghiottito dalla meningite. Fuori strada l'autostoppista fantasma sul sedile. Apro gli occhi e cade terra nera dal badile. Non posso più sentire le voci nel mio cortile. Viene uccise ed esaurite, crisi e manie compulsive. Perdo un dito ad ogni tasto, il cervello invece è su incastro. Mamma non mamma col crisantemo quanto non manca il disastro. La testa vibra con l'alcol che serra le mie labbra. La clessidra che si sgrama contro i granelli di sabbia. Un altro e un altro tutto apposta, a parte gli 8 miliardi di granelli in ritardo. È un altro giorno che trapassa e che mi porta giù, la terra che collassa, ma tanto no, non mi importa più. Queste Sassari, la mia completa eutanasia, succhia vite da ogni cranio, manco fosse una sangria. Trasmetto 20 hands, underground la decadence, mica step, faccio rap dalle Garden Bombier. Alza e tacchi, se vuoi parla, scatti morto che parla, incastri scacchisti nei disastri. Qua lacera l'anima, sveglia dalla favola, è la city dei suicidi, zero miti con parabola. Ansia dentro il sangue sassarese, latitante alla larga da finanze. C'è chi infama conoscenze, chi si affida alle fattanze, perché ormai non conta niente. Sassari più strafottente, già nemmeno tredicenne. Guarda sotto quanto si marcia storto, lei non ti fa sconto ma ti fa da un aborto. Oh, Sassari, danger, panico alla grande e necrologo instabile, da come irreversibile. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Sassari agita, argina la fantasia. 7 giorni a settimana e vodka terapia, piena anestesia. Tra la finta borghesia dei fighetti di via Roma, pronti alla lobotomia. Sassari, l'angoscia, la truscia, la figa che si struscia ma alla fine non risuccia. Mammoscia, le pare, il ponte, puttane, di notte. La vita di provincia fa la dolce ma ti fotte. Sassari, la piazza, lo spaccio, la pula, la tazza, il laccio, il rap come una cura. Green flu, Grammy life, si fotta la paura. Questa città t'ammazza o ti rinforza l'ossatura. Sassari, l'amore, l'odio, la pazzia. Sassari, la noia che diventa malattia. Sassari, il disagio, lo vedi in ogni via. Sassari, il coraggio di restare o andare via. Sassari, l'angoscia, Sassari, t'ammoscia, Sassari è una troia, tocca il tuo interno coscia. Ma non scotta e mette in conto, no, lei vuole un tornaconto e boh. Sassari che ti ama e poi ti si rivolta contro, bro. Sassari uno scontro, amore ed odio sopra un podio. I Sassari uno stress, non dà valore a ciò che voglio. Mi Sassari lavora in nero, ciò produce sclero. Il brolla in strada col pampero, e senza il tuo lavoro vero zero. Ragazzo di belle speranze, un cazzo. Vecchi nazisti con le panze stanno su a palazzo, e noi si sta con l'andazzo dei pazzi della città. Bere vodka, fare posca, questa nostra realtà. Come aiuto, N, non tutto è perduto. G, come i gaggi finti. G, O, come Occio. S, come Sassari. C, come Cioccio. I, d'imbriaghera, bro. E A, come angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Dove cazzo viviamo? Sassari, l'angoscia. Giò la Grammy Flow. Sassari, l'angoscia. Seca 4-6. Sassari, l'angoscia. Shine G-Flow Rap. Sassari, l'angoscia. Nerba Gragi. Sassari, l'angoscia. Sparra di Raguba. Sassari, l'angoscia. Danza voglia Giose Cuervo. Sassari, l'angoscia. Carne Maru. Sassari, l'angoscia. Gioca del voodoo. Sassari, l'angoscia. SS All Stars. Sassari, l'angoscia.